Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. La cena con il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, la visita a Roma, una breve vacanza, tutto cancellato. La regina Elisabetta da questo pomeriggio qui in questo ospedale a mie spalle, una gastroenterite, sembra niente di grave. In Italia, se c'è qualcuno in politica, perché io voglio capire amichevolmente... Io credo che gli italiani abbiano abbastanza memoria, e se no vuol dire che è proprio questo che gli italiani vogliono. Abbiamo questa mattina una impressione che vorremmo confrontare con il nostro pubblico. I giornali, gli organi di informazione, l'euforica voce di piazza altro non fa che osservare il nuovo Cavanza, il fibrillante Movimento 5 Stelle che sta occupando tutti gli immaginari. È giusto che sia così, è normale che sia così, ci piace vedere le nuove giacche a vento con occhialoni incorporati che saranno la nuova divisa aliena delle forze giovani che stanno gioiosamente invadendo i palazzi del potere. Perché? Perché legittimamente eletti, e quindi attendiamo di capire quale sarà il loro messaggio. Ma allo stesso tempo osserviamo generalizzato, non che ci sia un rapporto di causa-effetto così stringente, non che ci sia un nesso diretto e immediato, ma dà l'impressione generale, nella quale poi noi galleggiamo, che esista una sorta di fenomeno degenerativo di quella che è stata la classe dominante. In tutti i campi, nel campo della politica, avete visto, i vincitori sembrano stanchi, abbacchiati, distrutti, eppure hanno vinto, eppure i segni comunque della loro anagrafica arretratezza dimostra che non possono gioire della loro vittoria. Il Papa stesso si è dimesso, ne abbiamo lungamente parlato, ma adducendo come motivo principale la sua stanchezza senile. Sono vecchio, sono stanco, non ce la faccio più. E si è dimesso. La splendida, immarcescibile, intoccabile e divinamente proclamata regina d'Inghilterra ha l'enterite. Una così miserrima occorrenza fisiologica per la quale noi stessi ci vergogniamo di confessarlo. Ma come? La regina c'ha il cagozzo e non può venire in Italia. È una cosa che in realtà rappresenta assolutamente una novità. In altri tempi la diplomazia avrebbe detto la sovrana è sottoposta a degli analisi, a dei momenti particolari, a degli impellenti impegni, dei problemi di salute, ma lo specifico della mortificante malattia, indisposizione, che non si dice, nessuno lo dice, si trovano delle metafore, dà il segno comunque che qualcosa sta cambiando. Ne siete perfettamente convinti anche voi o semplicemente una mia lettura, che stiamo osservando in realtà l'esplosione del gerontocomio, di cui noi stessi facciamo parte, noi stessi vediamo in noi i simboli di questa degenerazione e stiamo attendendo anche noi, sul limite estremo della nostra fortezza Bastiani, che gioiosi arrivino i tartari. Fratelli, siamo vecchi, ci avevamo l'ore contate, volevamo fare una buona azione prima di morire, una sola, mandiamo il boia in pensione e chiudiamo in bellezza, eh? Cerchiamo d'essere preti. Io solo questo vi chiedo. D'essere preti, che non ci perdiamo niente. È finita, eh? È proprio finita. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Ma vorrei ancora... Questa mattina, invece di osservare in maniera rapace, in maniera clandestina, in maniera anche abbastanza imbarazzante, l'orda gioiosa dei giovani barbari, come stanno facendo il 90% dei cronisti parlamentari che inseguono i grillini laddove essi sfilino, vadano e si muovano, si riuniscano, parlino attraverso i loro nuovi sistemi di comunicazione, no, noi osserviamo quelli che osservano, quelli che sono rimasti un passo indietro, quelli che stanno sulle panchine dei giardinetti e me cercano di cogliere gli ultimi tiepidi raggi del sole mattutino. Beppe Neri, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Giuseppe Neri, che è amico noto di Melog, presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri, questa mattina lo chiamiamo nella sua più specifica veste professionale. tu, Beppe, ti occupi di anziani in maniera particolare nella tua, diciamo, nella tua professione, quando non stai qui a Melog a seguire le nostre follie. Una parte importante dei pazienti di cui mi devo occupare per professione sono persone che hanno superato i 60-65 anni. Cioè la nostra età, praticamente, più o meno. Siamo on the road, con Kerouac ci stiamo avvicinando anche noi alla soglia, sì. Senti, questa mattina ti chiedo di fare una diagnosi. Tu immagina che il tuo paziente non è un paziente, ma in generale è una classe umana che ha avuto il privilegio di sostenere posti chiave nella politica, nell'amministrazione delle nostre anime, nell'amministrazione del diritto regale. Abbiamo elencati tutti questa mattina, i politici che hanno vinto, il Papa che se n'è andato, la regina che ce l'ha diarrea, tutte le persone che in realtà dimostrano il segno palese della loro arretratezza dovuta a una giusta, normale, naturale degenerazione senile. Ecco, è possibile fare un'analisi più specifica, più nel profondo, non soltanto legato ai fenomeni fisici più esteriori? Beh, per sua maestà britannica mi riservo il diritto di poter invocare il brain gut axis, cioè l'asse budello-cervello, che è un sistema trasmettitoriale che da molto tempo è stato descritto, per cui va benissimo l'ipotesi che possa avere avuto una salmonella albionica di passaggio che l'ha colpita, però bisogna anche tenere conto che a volte il nostro intestino ci manda dei messaggi che il cervello elabora molto efficacemente, e quindi ogni tanto l'organo bersaglio intestino, cioè i disturbi come quelli che hanno portato al ricovero, bisognerà vedere un pochino se sono soltanto da infezione, da tossinfezione alimentare. Non penso che vada nei fast food pakistani. Sì, però scusami Giuseppe, Giuseppe Neri, la cosa interessante è che trovo che sia caduto una sorta di velo di riservatezza rispetto alla reale condizione di una classe dominante. Quando mai nella storia dell'umanità sarebbe detto una cosa del genere? Sarebbe diventato ufficiale un messaggio del genere? Quando mai un papa se ne sarebbe andato per vecchiaia e malattia? Quando mai persone che hanno vinto le elezioni giacciono lì meste, è come se avessero preso una bastonata sulla testa? Un grande teologo, Josef Ratzinger, secondo me fa parte di quella categoria di ultra-ottantenni che noi vediamo nella nostra professione, che hanno ancora invece delle capacità cognitive secondo me molto brillanti, e nella mia modesta valutazione forse ha fatto un'analisi estremamente attenta da grande studioso, e ha fatto un'opzione che riguardava il suo prevalente interesse per l'approfondimento dei temi teologici che lo riguardano. Ma uscendo da questo, tu dici una cosa che secondo me è abbastanza fondata, nel senso che io non me la sentirei assolutamente, nonostante l'età dei nostri leader 70-76, il più giovane a 62 anni, di spiegare tutto banalmente, vanno verso l'Alzheimer, si stanno indementendo. Non è assolutamente così, è molto più sottile. Il mio modello interpretativo assolutamente fallibile è quella che noi chiamiamo sindrome disesecutiva. La sindrome disesecutiva è una condizione in cui la nostra memoria, che equivale alla RAM dei nostri computer, la working memory, quella con cui noi interagiamo per utilizzare le nostre capacità nel quotidiano, è compromessa. E allora cosa hanno questi pazienti? Hanno una ridotta capacità di giudizio, hanno una ridotta capacità di critica, hanno difficoltà nella pianificazione di compiti complessi, non sanno risolvere i problemi, non sanno elaborare strategie, e in certe situazioni particolari ci sono disturbi dell'attenzione, comportamenti istintivi, fino all'apatia. Mi sembra che sia una fotografia forse di quello che stiamo vedendo in questi giorni di fronte a quelli che tu chiami le orde che assediano la fortezza Bastiani. Fermiamoci un secondo. Fabio, primo ascoltatore, vediamo se riusciamo a dare il senso di quello che voglio dire questa mattina. La mia non è una demonizzazione, è che voglio analizzare da un punto di vista proprio tecnico-scientifico quelli che potrebbero essere dei sintomi palesi per cui è accaduto quello che sta accadendo, di cui nessuno sembra darsi ragione, ma in realtà una ragione c'è, una ragione di naturale affaticamento delle menti delle persone. E come ha detto Beppe Neri, probabilmente ancora non abbiamo messo a punto la capacità di potenziare il banco della RAM della nostra memoria organica. Quando questo sarà possibile, non ci sarà più questo problema. Fabio. Sì, buongiorno a lei Nicoletti. Ma il suo ospite ha anticipato perfettamente il mio pensiero. Io sono dell'avviso che abbiamo una classe politica che era abituata a considerare la politica come un qualcosa che soltanto un certo tipo di politico, di persona poteva fare. Non è così. La società viaggia con altre velocità. L'Italia oggi ha bisogno di persone con altre qualità che i nostri politici attuali non hanno. Con cosa ci scontriamo? Purtroppo purtroppo ci stiamo scontrando con soggetti che non vogliono capire il cambiamento epocale e ci troviamo di fronte a delle persone che, vedi Bersani, vedi Berlusconi, ma vedi tutti, non hanno capito. Non voglio fare una trasmissione a senso unico. Grillo stesso, che è, diciamo, il portavoce del rinnovamento, non è certo un ragazzino. Non è un ragazzino, ma Grillo ha visto e ha saputo, come dire, cavalcare quell'onda. Ormai che io sono un 44enne, tutti vediamo, io ho votato per tutto l'arco costituzionale, ho votato da Craxi fino a Berlusconi, alla Lega, ma nessuno di questi ha saputo veramente incidere in quel modo, che qui battono persone normali e persone con una media preparazione, perché la differenza non è più destra sinistra, la differenza è fare in un modo corretto e valido e non fare. Ci troviamo un Grillo che sta proponendo il fare, e quindi non è populismo, lui si manifesta con un modo. Ecco, però torniamo Fabio, scusi, alla nostra analisi precedente. Cos'è che ferma? Facciamola più a vasto respiro, perché parliamo soltanto di Berlusconi, Bersani, anche Napolitano ha detto che la carta d'identità conta rispetto alla sua possibile ricollocazione nel ruolo di Presidente della Repubblica, quindi è un'ammissione, ma non sono soltanto sintomi fisiologici. Abbiamo iniziato, come spesso facciamo perché ci piace la facezia, calcando su quello che sembra più paradossale, l'ammissione ufficiale del problema intestinale della regina. Però è un sintomo, significa che c'è in generale, ma in uno stato generale di riferimenti, di valori, di punti forti, un senso di inadeguatezza ai tempi che si vivono. È questo forse? Assolutamente sì, e io sono dell'avviso che la volontà assoluta di capire questo momento che stiamo vivendo manca nei nostri politici. Ci siamo abituati in Italia ad avere cambiamenti di personalità e di soggetti politici solo biologicamente, solo quando ci lasciano a livello fisico, ma non deve essere così. Renzi, per fortuna, poteva essere l'unica possibilità che una certa classe politica poteva avere di sinistra, che anche lei è la più arroccata sulle vecchie posizioni, ma non hanno saputo cavalcarlo. Poi si rende conto, Fabio, le dirò una cosa che sembrerà un'eresia per il poco che osservo la politica. In questo momento anche Renzi sembra vecchio rispetto a ciò che si sente nell'aria di, non so poi se sortirà qualcosa, di spinta verso qualcosa di dirompente di nuovo. Ma sa perché sembra vecchio Renzi? Perché non ha avuto anche lui forse la voglia, la forza di collocarsi in una posizione separata dalla nostra sinistra. La sinistra oggi purtroppo è rimasta indietro, fisicamente indietro. Sentiamo Denis, grazie Fabio. Denis, buongiorno. Buongiorno. Ecco, io intanto complimenti alla trasmissione. Teniamoci sul tema però, perché sennò usciamo. Stiamo sul tema con cui abbiamo iniziato, con Beppe Neri. Ecco, il discorso secondo me è questo, è che secondo me è arrivato il momento giusto perché questi signori, insomma, vadino un attimino a casa e lasciano spazio a noi giovani, se no rimaniamo una società, come ho detto prima ai colleghi che hanno preso la telefonata, un po' alfanizzata, no? Questo è questo che io penso. Quindi... Poi vedi, se fanno sforzo, cerchi di non cavalcare il luogo comune, perché fa invecchiare precocemente dire quello che già è nell'area, lo dicono tutti. Esca dallo slogan. Cosa vuol dire lasciano spazio a noi giovani? Lei quanti anni ha? Io 34. Ma quindi è giovane a tutti gli 34. Effetti, giovane. Allora, le posso fare l'esempio mio? Sì, sì, a pieno effetto lei è giovane. Ecco, per dire, io lavoro, sono 10 anni che lavoro in una società commerciale, sono ragioniere, per dire, e ho un titolare che ha una certa età, per dire, no? Vedo che ha fiducia, ma non ha fiducia, te la dà e non te la dà, sei bravo, ma poi dopo non sei bravo, vola alto, ma poi... Cioè, capisce che anche per noi giovani inizia a essere difficile dopo prendere anche sicurezze, essere insomma in grado di... Se dice un sistema troppo legato alle proprie attenzioni, alle garanzie, alle pavidità, per cui non si rischia, non si osa. Lei vorrebbe qualcuno che osasse e scommettesse su di lei anche rischiando. Esatto, in generale dico, anche perché insomma siamo dei bravi ragazzi, insomma, tutto sommato, no? C'è sempre un giudizio molto negativo. Vabbè, questo è il suo punto di vista. Riprendo 800 24 0024. Questa mattina stiamo facendo un'analisi sintomatica del perché stiamo vivendo un momento che sembra inspiegabile, impossibile da definire, ma è un momento molto particolare. Se lo riportiamo su un piano proprio medico e clinico, è anche abbastanza spiegabile. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Gianluca. Andrea Rossetti è professore di filosofia del diritto e docente di informatica giuridica all'Università di Milano Bicocca. Ci spostiamo sul piano antitetico rispetto all'analisi che continuerà a farci Giuseppe Neri. Il luogo della giovinezza, il luogo del tempo e dell'aria che stiamo respirando, il luogo della contemporaneità è il luogo impalpabile, altrettanto indicibile e indefinibile della rete. Oggi leggo sul Fatto Quotidiano, ci sono due pagine, il Parlamento in ogni casa, internetcrazia, sogno e utopia. Sembra che il punto di discrimine fra l'antica e traballante generazione e quella nuova, dirompente, rivoluzionaria e gioiosa sia proprio la conquista dello spazio della rete. Tu sei d'accordo sia questo il punto? Beh no, direi ovviamente di no. La rete è, quasi banale dirlo, uno strumento, no? E di conseguenza la rete è quello che le persone, l'uso che le persone fanno è niente altro che quello. Sicuramente c'è una differenza d'uso tra politici nuovi e politici vecchi dello strumento. Nuovi e vecchi qui non parlo semplicemente di appunto appartenenti al Movimento 5 Stelle oppure no, ma proprio giovani oppure avanti con l'età. Quelle le mie sono osservazioni, insomma, di carattere, diciamo così, antropologico, da osservatore partecipante in qualche modo, no? Però si nota che quando i vecchi politici entrano in rete sono ad esempio molto spesso disposti a discutere. A discutere in una maniera e in una modalità che non è quella del web, cioè con pensieri molto articolati, a volte con articoli molto lunghi, e nella maggior parte dei casi infatti le persone non arrivano in fondo a leggerli, perché non è la maniera di esprimersi in qualche modo corretta. La rete richiede una certa velocità, una certa leggerezza, nel senso in cui di leggerezza e velocità parlava Calvino nelle elezioni americane. I giovani, i politici più giovani invece, anche qui indipendentemente dal partito a cui sono, dal partito a cui vengono, hanno effettivamente un uso migliore della rete. Un uso migliore dal punto di vista proprio linguistico, dal punto di vista della capacità di articolare pensieri in poche frasi, in pochi enunciati. È chiaro che questo secondo tipo di discussione è molto spesso più povera dal punto di vista dei contenuti, molto spesso si finisce in bagarre, perché comunque, e qui vale un po' per tutti, non abbiamo ancora davvero imparato le regole della conversazione, delle conversazioni online. Quindi molto spesso c'è gente che ti butta fuori dal gruppo, ti banna, non ti fa più parlare con loro, un po' l'analogo insomma dell'alzarsi, quando si discuteva al bar uno non era d'accordo con gli altri, si alzava e se ne andava via. Ecco, io credo che tutti quanti dobbiamo imparare una nuova modalità di interazione, ma già adesso si vede questa differenza. È chiaro che poi ci sono le eccezioni, per carità, insomma, ovviamente ci sono ottuagenari che hanno una scrittura della rete molto più efficiente di molti ventenni. Ma vediamo un attimo, scusa, mi interessa proprio quello che stai dicendo, Andrea Rossetti, nell'occhio del neurologo Giuseppe Neri. Giuseppe Neri, quello che dice Rossetti è mutato il linguaggio, una cosa che non ha precedenti nella storia dell'umanità, perlomeno in maniera così radicale e così massiva. I giovani, la parte più fresca e più giovane della popolazione, siano essi di altissimo profilo riguardo la cultura digitale, siano semplici utenti che hanno il loro smartphone e quindi lo usano tutti i giorni per comunicare nel giro stretto allargato delle amiche, stanno cambiando il linguaggio, c'è un'impossibilità di dialogare. È un po' quello quando devi ripetere a tuo nonno le cose 100 volte, lui ti dice sempre le stesse cose in maniera ossessiva, che sono i primi sintomi della botta di rincoglionimento, sta avvenendo su un piano naturalmente meno patologico e più diffuso. Beh, questo è vero, ma riflettevo su quanto diceva poco fa Rossetti e pensavo a cose molto semplici, no? Al di là del giovanilismo per cui soltanto l'età anagrafica dovrebbe essere un valore, cosa che io non condivido. Ma vuol dire, non bisogna andare lontano, basta guardare un pochino al di là delle Alpi. Dico, ma ci rendiamo conto che noi abbiamo accanto un paese che ha fatto un governo con 17 uomini e 17 donne e che quando parla la portavoce del presidente Hollande parla Najat Vallaud-Belkacem, che è una ragazza di 34 anni. Dico, ci rendiamo conto che il ministro della cultura, che poi ha i nomi di Gualdo Tadino, non lontano da te, si chiama Aurélie Filippetti, noi diciamo Filippetti, ha 39 anni, che il ministro del commercio ne ha 34 in Francia. Voglio dire, queste sono le cose che la gente, anche senza bisogno della rete, sa, capisce, percepisce, e questo crea difficoltà poi nel pensare che al di là degli slogan ci sia una credibilità da dare ai giovani soltanto in quanto tali. Però il divide veramente anagrafico e generazionale in questo nostro povero paese è così lacerante, è così profondo, che crea delle, secondo me, delle steppe sterminate in cui potranno correre tanti, anche argomentando a volte in maniera... Allora vi lascio la palla per riprendere la trasmissione fra un istante dopo le informazioni della borsa. Non è che noi abbiamo per forza bisogno di ricrearci un'altra mistica, un'altra religione, che è il grande culto della deità rete, che in questo momento sostituisce quello che, come dice Beppe Neri, semplicemente in Francia fanno, prendendo persone più giovani e più qualificate. Melog, la realtà condivisa. .800240024, stiamo analizzando in generale la classe politica italiana, ma in senso più lato gli uomini che hanno rappresentato dei punti di riferimento altri nei vari campi della gestione del potere, potere spirituale, potere, prestigio e controllo in vari settori, in vari campi. Stiamo facendo con vari ospiti, facciamo con un neurologo che ci mostra quelli che sono i sintomi dell'invecchiamento, non soltanto quelli esteriori, non soltanto quelli fisici, ma alcuni segnali che dimostrano che in realtà non stiamo più vivendo il nostro tempo a presa diretta, come in realtà lo fa una persona più giovane, ma poi siamo sicuri che i giovani vivano sempre in maniera intensa, profonda e vivace il loro tempo. Non dobbiamo cadere nei luoghi comuni. Vi do qualche ragione di qualche SMS che mi è arrivato. Qualcuno mi dice che, aspettiamo un attimo, mi fa un esempio, mi dice ad esempio Putin, non che io approvi la sua linea politica, ma 65 anni, o pilota di jet, cintura nera di judo, cacciatore, hockeyista su ghiaccio, eccetera. Ma che vuol dire? Non è la rete che dà la vigoria e la presenza fisica di un nuovo politico. Beh, non ci lasciamo incantare da queste dimostrazioni di efficienza. Veniamo da una storia mediamente recente in cui c'era un duce che falciava il grano dentro la trebbiatrice, andava a cavallo, tirava di scherma, tirava al volo, montava le sue amanti sugli scalini di Palazzo Venezia, li faceva di tutti i colori. Fa parte molto anche dell'immagine di vigoria e di eternità che vuol dare un uomo politico. Giacomo, ascoltatore Giacomo, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca, buongiorno ai suoi ospiti. Io penso che in Italia ci sia alla base un grossissimo problema, è quello di non voler, proprio per un aspetto culturale anche, dare spazio ai giovani. Allora, il giovane cos'è che ha diverso dal vecchio, in senso come idee? Perché il Papa ne ha dato una dimostrazione, si può avere 80 anni, ma avere delle idee molto giovani per quanto riguarda il cambiamento. I giovani, a differenza delle persone... Se lei me ne elenca qualcuna del Papa... L'atto diciamo di dimettersi, oltre che essere un grande atto di umiltà, ma è quello che praticamente lui ha dato inizio, e questo poi si vedrà col passare del tempo, al cambiamento. Cioè la Chiesa per molti anni è rimasta statica, non ha voluto confrontarsi con la realtà. Beh, più che il Papa chi poteva creare una rivoluzione all'interno della Chiesa? Comunque questo è un altro argomento, se no ripetiamo a parlare del Papa. No, ma infatti adesso io sto arrivando anche all'altro. Sì. Quindi il giovane, a differenza della persona vecchia, ha voglia di mettersi in gioco, quindi le idee sono sicuramente più nuove, sono più a contatto con la realtà, come si evolvono altre cose come la tecnologia, l'informatica. Questo però in una condizione ideale, in una punta rappresentativa di tutte le qualità. Non è che oggi abbiamo una classe di giovani così portati all'entusiasmo, all'innovazione, al cambiamento, all'uscire diciamo dalle gabbie familiari comode e accoglienti. Che è perché la classe dirigenziale non ha investito nei giovani per comodità, perché fa comodo essere lì a dirigere, ad avere il potere in mano, e nel momento in cui ci sono dei giovani che vogliono attuare un cambiamento in senso positivo, vengono, e Renzi ne è l'esempio, vengono messi in un certo qual modo democraticamente, come loro dicono sempre, democraticamente vengono fatti da parte. Ecco qual è il grosso errore che continua sempre a ripercuotersi. Vabbè, però non trasformiamola in una semplificazione da bar, perché sennò è troppo semplice. Quelli non se ne vanno, finalmente se ne vanno a casa, spazio ai giovani. È un po' più complessa la realtà. Giuseppe da Pescara. Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, no, io volevo, stavo facendo questa riflessione, e cioè che uno dei messaggi più importanti che il Movimento 5 Stelle ha proposto e che l'elettorato ha recepito è quello che la politica non la si può più fare per mestiere. Cioè la società civile, qualcuno della società civile si propone, giovane, anziano, operaio, imprenditore, chiunque esso sia, per un breve periodo di tempo presta la sua opera alla politica, quindi va a fare il suo servizio civile per un periodo di tempo limitato, dopodiché finisce la sua missione e ritorna a fare quello che fa. Ecco, questo è un punto secondo me, Giuseppe, quello che dice lei è un punto interessante. Noi ci siamo abituati che in realtà sia possibile, senza arte né parte, dico senza particolare talento, perché non è che la pancia la politica dimostra avere particolari talenti, senza avere attività professionali alternative, o avendole diventano o corroborate dal fatto che a svolgere siano persone che poi anche lo strumento della politica in mano, o semplicemente diventano attività accessorie, che si possa fare il politico per mestiere, per professione. Cioè, tutta la vita non ho fatto una mazza, ho fatto il politico, quindi sono stato seduto sul banco del Parlamento, quindi ho amministrato il potere, quindi ho creato intorno a me, ho favorito, ho alimentato quello che è il mio corpo elettorale, quindi ho curato il mio collegio, le mie persone, sono diventato un punto di riferimento. Ma è un po' il principio delle caserme. Io ho fatto il militare ai tempi della leva obbligatoria e mi resi conto, facendolo già in età tardiva, quindi già laureato sulla soglia della laurea, adesso non ricordo bene, mi sembra che dovessi solo discutere la tesi, mi resi conto di una cosa che banalmente non si accorge un giovane di leva, diciottenne o ventenne, che in realtà era un sistema che si autoalimentava. Le caserme servivano per raccogliere i soldati. I soldati servivano per mantenere la pulizia e l'efficienza delle caserme. E non ci potevano essere caserme se non c'erano i soldati a pulire i gabinetti, a verniciare le pareti, a spazzare i cortili. Ma l'unica grande principale attività dei militari era quella di pulire i pavimenti, di spazzare i corridoi, di pulire i gabinetti, di tenere efficienti le caserme. E la politica si reggeva così. C'erano uomini che non avrebbero potuto fare altro nella vita e c'era un sistema che serviva per creare delle cucce accoglienti per queste persone. Paolo Ferri, buongiorno. Buongiorno. Docente di tecnologie didattiche all'Università Milano Bicocca. Sei anche tu dell'idea, come ha detto il professor Rossetti poco fa, che in realtà sia un po' sbagliato pensare che la panacea di tutto sia stata la rete. Candidati scelti con un click, ma guardiamoli negli occhi. Qua si parla di videoconferenze, di chat a distanza. Non è che il giovane è soltanto giovane perché smanetta e smanettone, come una volta i giovani erano quei signori quarantenni con i jeans attillati che facevano scoppiare la pancia. Credo che la questione relativa anche al modo di comunicare del Movimento 5 Stelle sia interessante, perché se guardiamo al suo leader o ai suoi due leader, hanno fatto un uso della rete completamente, per così dire, massmediale, cioè hanno utilizzato il blog come si utilizzava la radio o la televisione durante le dittature. Beh, uno è il back-end, uno è quello che stava dietro, Casaleggio, e Grillo era, sì, comunque, è il contenuto era. Comunque Grillo ha utilizzato il blog in una maniera molto poco reticolare, molto, molto direttiva, molto unidirezionale. E quindi questo è un lato. Da un lato non si può pensare che Grillo, nel diffondere i suoi messaggi, li abbia diffusi in maniera partecipativa. Dall'altro lato, e questo è l'aspetto interessante, che forse porrà delle contraddizioni dentro lo stesso Movimento 5 Stelle, la comunicazione che avviene nei gruppi di Facebook piuttosto che nelle reti locali tra gli eletti o comunque tra i militanti del Movimento 5 Stelle è invece una comunicazione interattiva, reticolare. E quindi paradossalmente anche all'interno del Movimento 5 Stelle si dà questa dicotomia tra immigranti e nativi digitali. Grillo è sicuramente un immigrante, cioè ha usato la rete come prima usava la televisione. I suoi militanti no. E credo che prima o poi questa contraddizione esploderà, nel senso che probabilmente sono troppo ottimista, ma ho l'impressione che, come già hanno dimostrato alcuni casi di espulsione di militanti del Movimento 5 Stelle, che praticavano una comunicazione più orizzontale, molto presto accadrà una sorta di contrapposizione generazionale anche all'interno del Movimento 5 Stelle, perché le pratiche comunicative dei giovani che ne fanno parte sono sicuramente diverse dalle pratiche comunicative di Grillo e Casaleggio. Allora, fermiamoci, scusa, ritorniamo a Giuseppe Neri, presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Mi puoi definire alcune semplici, banalissime categorie, cioè dei sintomi per cui si diventa vecchi? Cioè, si è sospettosi verso i più giovani, come diceva proprio quello lì, bisogna trovare per forza un nemico, si diventa iracondi e ci si azzanna in famiglia. Quali sono i sintomi che in realtà sta vaticinando il professor Ferri come qualcosa che accadrà in rete? Cioè, ci sarà lo scontro generazionale comunque anche nella realtà parallela? Beh, c'è una premessa che penso sia importante fare, cioè noi viviamo in una società in cui, e lo dico da medico, nonostante le cure dei medici o grazie alle cure dei medici, si vive più a lungo e si arriva tranquillamente a 80-90 anni. Questo vuol dire che una serie di patologie che colpivano una fascia ridotta di popolazione solo 20-30 anni fa, adesso le vediamo su larga scala. Allora, bisogna dividere, per quello che dici tu, da un lato alcuni disturbi che noi chiamiamo di tipo cognitivo, per essere molto grossolani, la memoria, il giudizio, la capacità di orientamento, che sono legati a quella che poi è la grande sfera della compromissione delle funzioni superiori e quindi le demenze. Gli altri, che sono di tipo comportamentale, afferiscono in larga misura a alcuni tratti di personalità che, come possiamo sperimentare su noi stessi, si accentuano, si esasperano, si acuiscono con gli anni. Ma le due cose non necessariamente vanno insieme. Uno può avere un pessimo carattere e continuare ad essere perfettamente efficiente sul piano cognitivo, oppure può avere dei gravi disturbi dal punto di vista della memoria, ma relazionalmente essere molto affabile. In alcuni casi particolarmente gravi si associano entrambi gli aspetti. Ragione di più per cui la rete non è certo il luogo ideale per definire il valore generazionale. Beh, come diceva Brassens, ci sono gli stupidotti di ultima generazione o quelli che scendono dalle nevi d'una volta. Il fattore squisitamente anagrafico, a mio giudizio, non costituisce un elemento discriminante in nessun caso. Il tema da riprendere tra un istante dopo le informazioni del traffico è la paura del cambiamento o la paura del futuro? Quali sono i probabili elementi scatenanti di quello che adesso sta accadendo? Melog, la realtà condivisa. Giulio, buongiorno. Buongiorno, un piacere partecipare alla vostra discussione di questa mattina. La trova troppo astratta? No, assolutamente, forse è veramente attuale, perché alla fin fine parliamo, io ritengo, di capitale umano, un termine che può anche essere interpretato in malo modo, però ritengo che proprio dalla valorizzazione del capitale umano, questo io penso che... Lei parla da capo delle risorse umane di qualche azienda sicuramente. Ma guardi, io lavoro nel settore pubblico, ho avuto varie esperienze nel settore dell'ambito della sicurezza, ma anche della gestione del personale, ma di tante altre cose. Ecco, l'esperienza che forse la persona anziana dovrebbe avere e avere quella capacità di metterla a disposizione della nuova generazione, io credo che questo sia il tema fondamentale, e avere quella capacità di potersi mettersi in gioco, anche l'anziano, perché l'anziano è come il rapporto tra padre e figlio. È una crescita che il padre fa insieme al figlio che cresce e che diventa adulto, e io penso in questa maniera possiamo affrontare il problema, dobbiamo avere il coraggio di farlo, perché ritengo che siamo arrivati a un punto di non ritorno. Insomma, se uno guarda un po' l'Italia e gli altri paesi, noi siamo rimasti tanto indietro. Allora ben venga Grillo, ben vengano tutte quelle forze anche nelle sedi di partito che abbiano la capacità di poter portare una nuova ventata. Sentiamo Daniele. Daniele. Sì, pronto, buongiorno. Sì. Eccomi qua, mi sento. Aspetta, tolgo il via voce perché diventa... Sì, tolgo il via voce. È meglio, perfetto. Allora, guardi, quello che ha detto il professore in precedenza io lo condivido, perché è proprio quello che volevo dire io, nel senso che bisogna discriminare un abbattimento delle capacità cognitive da un comportamento. Allora, se vogliamo fare un discorso politico, ma si può allargare a qualsiasi cosa, le persone crescendo, anche noi ce ne rendiamo conto in nostra minima parte, cerchiamo di avere una certa tranquillità con delle esperienze e con delle cognizioni, delle idee che già ci siamo posti in precedenza, il famoso si stava meglio quando si stava peggio e cose del genere. La differenza è che una persona che è dinamica, che ha voglia di proseguire il suo cammino, perché non si finisce mai di imparare, questo qui deve avere anche la capacità e l'umiltà in alcuni casi di acquisire e di comprendere ed usare, poi magari non in modo perfetto, perché ragazzi che nascono con il computer, già come i miei figli che praticamente non sapevano quasi neanche scrivere ma sapevano utilizzare a grandi linee, diciamo, per i loro giochi il computer, certamente saranno avvantaggiati. Sì, anche se Daniele dire sì. Saper usare il computer ormai è qualcosa anni 70, sì, oggi bene, la cultura digitale è un'elasticità mentale, come dicevano appunto i nostri ospiti, di tipo diverso. Sì, ma i cervelli di Formula 1, per farne un esempio, gli scienziati anche a 90 anni utilizzano strumenti, si mettono in gioco continuamente, e le loro idee cercano di cambiarle. Io credo che anche a livello politico ci sia una specie di irrigidimento o di pigrizia o semplicemente di prepotenza nei confronti delle altre persone, tale che poi alla fine si forma questa cosa. Solo ormai siamo arrivati a un punto in cui non c'è più tempo per le analisi, è proprio il momento in cui le cose accadono. Andrea Rossetti, vediamo di ridefinire meglio, perché come vedo ancora abbiamo grandi incertezze nel capire cosa significhi essere digitalmente contemporaneo, semplicemente saper usare il computer. È una maniera diversa, è il principio della condivisione, cosa che non mi sembra molto applicata, come diceva Ferri, in realtà, almeno al momento, nell'ambito 5 Stelle. Vedo, ma lo dico con grande serenità, un aspetto molto settario, molto chiuso, anche se con l'indubbio vantaggio di avere comunque cambiato qualcosa. Ma indubbiamente la comunicazione di questo movimento nuovo non è quella che viene raccontata, insomma io sono stato espulso da praticamente tutti i gruppi 5 Stelle con i quali ho cercato di interagire, perché facevo domande e molto spesso non mi accontentavo delle risposte che mi venivano date quando mi venivano date, quindi c'è questo effettivamente non è questa, insomma, la rete. c'è questo racconto appunto di quello che si fa, che spesso poi non corrisponde alla prassi. È una buona cosa che ci sia già il racconto, però, perché vuol dire che le persone stanno andando nella direzione giusta, almeno idealmente. Poi mancano ancora le pratiche, insomma, e a volte anche le capacità per mettere in opera le pratiche che si immaginano, però la direzione è quella giusta. Quella che da combattere non è tanto un problema di età, insomma, ho apprezzato moltissimo peraltro la citazione di Braffin, che è una delle mie preferite, insomma, appunto, quando uno è stupido a 20 anni, 80 anni, insomma, non è un problema anagrafico. Quella che bisogna combattere è quella che potremmo chiamare in qualche modo wikimentalità, no? Cioè la diffusa credenza che tutti sono un po' capaci di fare tutto, insomma, senza nessuna specifica preparazione. Era una cosa contro cui si scagliava Musil già nell'Uomo senza qualità, che è scritto all'inizio del secolo XX, del secolo passato. Non è vero, io credo che anche per fare, anche che la politica sia una professione, magari non una professione che uno deve portare avanti per il resto della sua vita, per tutta la sua vita, però una professione, un mestiere, che quindi deve essere congruamente retribuito e anche molto retribuito, secondo me, perché è potenzialmente un mestiere difficile, quindi secondo me è importante anche questo. E soprattutto non bisogna credere appunto che si possa tutti siano davvero in grado di fare tutto. Ecco, questa è la cosa che mi spaventa molto di più, se volete, del mettere un giovane, un 25enne, un 30enne. Ma è vero che rete uno vale uno, che è uno degli slogan che circola di esatto, più. Esatto, uno vale uno, insomma, è vero statisticamente, perché le nostre democrazie poi sono tutte basate sul principio statistico, per carità, no? Quindi il mio voto vale esattamente come quello di un'altra persona, ed è giusto così, perché un criterio migliore oggettivamente fino adesso non l'abbiamo trovato. Questo però non vuol dire che ci sia sempre effettivamente uguaglianza sul piano dell'azione, insomma, ecco, io avevo un parente che ogni volta che vedeva un campo diceva: ah, lì lo compro e ci faccio una casa. Io dicevo: ma tu fai il ciabattino, cosa diavolo sai di fare una casa? Ma sì, che cosa ci vuole fare una casa? Basta mettere un mattone sopra l'altro. E non è mica vero, per fare una casa ci vogliono delle competenze che un ciabattino semplicemente non aveva e non avrà mai, insomma. Allora adesso facciamo una domanda quasi finale al professor Paolo Ferri. Paolo Ferri, quale sarebbe il sintomo di reale appartenenza alla cultura digitale nella prima proposta che tu ti aspetteresti dal Movimento 5 Stelle? La prima proposta sarebbe quella dell'estensione del diritto alla connessione a tutti i cittadini italiani, il mettere nella Costituzione italiana il diritto all'accesso. Dubito che sarà la prima, perché credo che in Grillo prevalga questo cupio di soldi e l'elemento della distruzione, e non sempre la distruzione è creativa. Sono più speranzoso nelle persone, nei 105 o 108 giovani o meno giovani che sono entrati ex novo in Parlamento. certamente potranno cambiarne la natura anche attraverso la rete, ma non è certamente solo la rete che può cambiare una per la Giuseppe Neri, ultima battuta, quale terapia suggeriresti a quelli che in questo momento vediamo in sofferenza? I miei colleghi geriatri da molti anni usano un termine che io ho fatto anche mio e che serve molto, in questo caso lo consiglierei sia ai capitani di industria di eccellente livelli, sia agli addetti alle smacchiature, sia ai professori universitari. I geriatri dicono ROT, Real Orientation Therapy, cioè trattamento di orientamento centrato sulla realtà. Se aprissero le porte, andassero nelle strade, vedessero, lontano da quello che quando eravamo ragazzi era il triangolo Botteghe Oscure, Piazza del Gesù, Via del Corso, se vedessero veramente quello che il paese e la gente nelle strade pensa e vede, si orienterebbero circa la realtà e il declino cognitivo e comportamentale potrebbe essere meno grave. Grazie Beppe Neri, grazie Andrea Rossetti, grazie Paolo Ferri, ci sentiamo domani.